Io. Cioè, ci siamo? Eh? Siamo pronti? Eh? Vi presentiamo Gigi D'Agostino! Grazie. Buonasera! Buonasera! Buon Natale! Lo so che era ieri, però ieri io ero là, voi eravate qua e non c'era. Però non è ancora arrivato Capodanno e quindi stasera festeggeremo il nostro Capodanno, ma solo perché noi ci vediamo stasera e quindi lo festeggiamo proprio il nostro. Poi voi festeggerete il vostro, io il mio. Se voi siete d'accordo, facciamo un po' come se fosse Capodanno, eh? E quindi cominciamo col nostro tempo. A me piace molto il ritmo, le armonie a tempo. E se a voi piace il tempo, seguite un po' questo tempo. Buonasera. È molto spontaneo. Cosa c'è scritto lì? Ah, corti. Ciao. Questo è il tempo che va a tempo. I tell you that it is so important to talk about what God is doing. I nostri cuori. How God is operating in the earth. Una musica col cuore. How God is saving souls. Scusa, non lo faccio. It makes no difference to me how many think there's nobody getting saved. God is saving people every day, every minute. God is working a miracle for one of his children somewhere. Isn't that powerful? Isn't that powerful? Now let me tell you something. We're still beautifying God's house. I need 100 people to write me this week and send a love offering of $50 or more. Let God use you this week for his glory. Let us beautify the house of God together. I am excited about the house of God. I am excited to fall in love with doing something for the house of God. Buonasera Catanzaro. Dicono che c'è gente calda qua giù. Doniamo i nostri cuori. Non li spezzate. Avete fatto esplodere i nostri cuori, eh? Ci avete ucciso. Le vostre braccia. E la colonna sonora di questa serata, il grande viaggio qui in Calabria. Insieme a me. Succede, sta tornando questo tempo. È un bel tempo. Mani a tempo!

facciamo, per l'ultima volta. Poi giuro non vi faccio stancare più. Ancora una volta, per l'ultima volta. Ancora una volta, per l'ultima volta. Ancora una volta, per l'ultima volta. C'era una volta, per l'ultima volta. Allora, cosa fai? Se ti metti a giocare ti prendi un cazzotto subito. È un mio amico lui, eh. Saltare, saltare, saltare, saltare, saltare, saltare, saltare, saltare, saltare, saltare, saltare. Battere le mani, mani, mani, mani, su battere le mani e poi saltare, saltare, saltare, saltare, saltare, saltare, saltare, saltare, saltare, saltare, saltare. Battere le mani, mani, mani, mani, su battere le mani e poi up in the air, put your hands up in the air. E un bel giorno, un certo giorno, di un certo giorno, ma che bel giorno, un altro giorno, un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo, di un altro ti svegli e devi. Un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero. Essere e di essere, essere o non essere. Se l'era già chiesto qualcuno un po' di anni fa, essere o non essere, Tino o non Tino. Lui che gioca a muro, hai visto? Un grande uomo, in un altro, altro ti svegli e devi ti cominciare da zero. Uomo, in un altro, in un altro. Mani a cielo, mani a tempo. chi la sa può cantarla. Un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo, e devi cominciare da zero. Cominciare da zero. Non credi di essere giusto e di essere un grande uomo, un grande uomo. In un altro ti svegli, ma tu credi di essere un grande uomo, eh? Solo perché sei là, le vostre mani, il vostro tempo. Insieme a noi, come noi! Giusto è di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero. Del folklore. It's time to rock the house. Ma perché hai messo il casco? Paura di cadere. Ritorniamo. Così, bellissimo. Se lo facciamo tutti insieme è ancora più bello. Tempo! We'll be right back. musica che parla. Se qualcuno la sente, se qualcuno riesce a sentirla, chi la sente è qui con me. Sente qui con me. E questo tempo è un tempo che non c'è. Le vostre mani. Yeah. ninna nanna. E il nostro saluto alla musica, il nostro omaggio alla musica, che ci fa vedere dei colori che non abbiamo mai visto prima. Aggregazione. E arriva il momento di passione, sta arrivando. Sono tutti i nostri colori. Avete un accendino? Accendiamo tutti un accendino, eh? È per un momento un po' particolare. Dai, dai, tutti. Non c'è nessuno che fuma qua. Un pubblico di non fumatori. Bellissimo. Avete una sigla? Non ce n'è più? Niente, devo dire la messa. Qualcuno si è confessato? Sì. Come no? Tutti. Se non vi siete confessati, non posso darvi questa canzone. Mi dispiace. È una canzone pura, casta. Yeah. alone, so I never let you go. I'm looking for your face, waiting for warm embrace. I'm living in the space, I'm following the trace. Tell me what's going on, tell me what's going on. I'm gonna make it grin, girl, have you ever seen? Oh baby, come to me. Grazie! Questo è un ballo molto particolare. Questo è il ballo dell'egiziano. Bisogna farlo piano piano, insieme a noi. Mi piacciono le rime. Beh, piano piano, mi spacchi la mano. Insieme a me! Al mio via, eh. Oh, non sbagliate sempre, perché questo è il ballo dell'egiziano e Cleopatra arriva piano piano. Cominciate insieme a me, pronti? Questo è il ballo dell'egiziana, bisogna farlo piano piano, piano piano. Come va? Ecco così, un po' più piano. Ballo. Sembra facile, ma non lo è. Oh, com'è? E Cleopatra qui non c'è. Oh, ciao. Lo rifacciamo tutti insieme. Braccia al cielo! Come prima, vi ricordate? Sicuro? Dopo interrogo. Insieme a noi! Questo è il ballo dell'egiziano. Bisogna farlo piano piano! Piano piano! Piano piano! Vi ricordate come fa? Di nuovo!